porta d'uscita. Qui ce l'ho già, io ho la scheda, devo vedere, ci dà, c'è il trovato d'uscita. Se non vuoi mettere dentro sotto il neco, dopo ti fatti sei, lo puoi mettere anche a mettere il coso. E fatti mettere lì all'esterno, pure lei. Qui l'Italia non c'entra niente, lo metti all'interno e è come dire che ti prendi un apparecchio con le vasche di 45 metri dentro e lasci l'età mettere nella fabbrica, 11,45, come si faceva una volta. E poi all'abbia di 45 metri dove sarà sempre centrato lì, dopo mezz'ora, perché ti salvi, capito? Cioè metti la scheda e non metti i finali, la 100 watt. La scheda col finale, direttamente dentro, te lo fa, mi sembra che l'ho fatto vedere già, sotto la faccio vedere, c'è la scheda verde, la scheda direttamente col finale, ho tagliato realmente la chassis e ti la stessa, cioè l'ingresso e l'uscita, basta, non c'è da fare nessuna modifica, non c'è da mettere nessun linea all'esterno, ma direttamente automatico. Vabbè, ma già si può mettere male, si può mettere a posto, dai, non c'è problema. Se non mi ricordo la vetrina, lì. Sai, io l'ho preso in giro, l'ho fatto da Massimiliano, quello che mi avete detto, e mi avete fatto fare una giustata. Poi, si è parati di giorni, però, come mi hanno detto, non c'è un esce con 100 watt, non esce perché altrimenti dovrebbe avere un trasformatore notevole. Mi rompe le scarpe. Visto, bene se incamera l'Alessio, io c'ho l'incamera mia. A me incamera l'Alessio, la malattia non devo morire, la parte quando devo fare il porcellino non devo sentire di nessuno. Quindi io c'ho solamente l'incamera mia, in cui c'è il televisore, che avete visto. Lì faccio un laboratorio, di vicino e faccio quello che voglio io, non devo incamera nessuno, basta, mi ho passato io, lo vedo prima. Beh, ti incamera l'Alessio, non saranno. Parlavo con voi e poi dopo sentire il televisore, no, non esiste, no. Quindi, ho fatto una scelta, ma non salgo una scelta come si deve, nuova, che è mia, c'è una camera mia, faccio come vuole, un casino per me. C'è un barattino, televisore, posso anche mangiare, fare la pipì in terra, non me ne frega niente. Nessuno dice nulla, sono cose che intuisco io. Vabbè, c'è la fortuna di avere la tua cameretta, ma tu non c'hai figli, quindi è per quello. Io le camerette le ho usate per i miei figli, quindi non ne ho. Sì, vabbè, io me lo faccio un figlio, non ti preoccupare. Ci sono le spagnole e le brasiliane, le faccio un figlio, vado a vedere a Fuzzi. Quindi è tutto un altro, ma non ho un risentimento io. No, non per quello, nel senso che tu hai più camere libere, capito? Forse ti conviene cambiare camera, se non mi metti male che in cucina fai prima. A me lo sei più tranquillo. A me non ti butta fuori da voi. Ma io ti faccio le possibilità di modulare, capito? Quindi non ho problemi. Basta che scendo in macchina, in due macchine posso mettere il baracchino, quindi. Ah, ce la fai a modulare in macchina, ce la sai che sei casa tua, non è che ti boh, fate la cena assieme. Se tu la fai chiudere la limite in cucina, a fare le cose del genere, ma in cucina c'è il tuo aiuto, non costa niente, no? Ma non è quello il problema. Ti metti un cavetto, te lo fai in cucina, nessuno ti dice niente, boh. Io sono fatto così la verità, io non lo sparo a nessuno. E cosa fanno così? Gaba gaba, e poi cappa. E allora Antonio che si dice? Che si dice? Buon buon venerdì Gianni. Sì, vedete si pensa a fronte Gianni, dopo c'è rientra. Quindi non c'è problema. Mi sto comprando un televisore. Mi ha fatto ieri sera, non so se mi sembra lusso una cosa del genere, una verità cinese. Certo, sono di che riga e fa fa così qua. Adesso lo sistemo, se così poi distribuisco 20 euro e gliela via in culo. Cappa, quando controllo a dove? 9:10, se la vicino a bomba. Stai scendo bene, faccia il tuo quello per canti nulla, mi. Capri tu, ci sei ancora? Cambio. Ehi, c'era la farina, ma nel caso del computer, io ce l'ho nel caso del computer solo voi. Però no, da 12 volte, 5 volte, quello che ho, e ti dà un caffè, però ci vuole un coso largo, io metto un paio di vento e così va fredda. Quando ci vediamo, stanno scendo giù, capito? Lui ha detto, per voi non ce n'è stato. Ma ce l'ho anche io, qui ho rimediato il computer. Allora non c'è problema. Allora, quello che ho me lo tengo io, lo tengo da parte qua, di riserva. Antonio, vieni avanti Capri 2 per i saluti. Ok, io non scusate, cambio. Bianco, un attimo, volevo attaccare la seminatrice e portare via, ci vediamo fra un po'. Va bene, salutone, riprendi capito. Che è andato Nattarino, dai, a fare il vista a Antonello e senz'altro sta facendo qualche cosa con Nattarino, dai, riprendi Caprino, comunque ti ha gonfiato, era amico. Gonfiato? È positivo, ha detto passo passo, ma già ti ha tirato fuori, eh. Buongiorno, adesso ho venuto un altro palazzo, non è possibile. Ha venduto tutto, ha arrivato Torino. La terra sta va bene ancora, sarebbe il minimo di sé che si fa vivo, se si fa vivo. Sei già d'accordo? Bene, sto facendo un po' dell'eco. Sto facendo bene, non è che sta facendo bene con l'apparecchio, però sta fa bene, la verità. Perché non faccio appena di lecca lecca, va bene così, non disturba. Non disturba, già lo sai. Cazzo. E comunque forse la radio, va, 5-6 per fare male. Sì, la 5 a bomba. Io prima ho fatto cosa? KB2. KB2 ha fatto QR... no, QRX, cioè QRX deve... perché devo fare la commissione, deve riprendere con fare una mezz'oretta lì. Ah, io va bene. Siamo arrivati soli, soli, soli, soli. Lui non fa niente. Capa, capa, capa. Mi pare di dire che la capa usata, che mi dico. Sì, mi dico. Ma fa me l'usata. No. Adesso mi pare che non mi stiamo un televisore. Così, vedi un po' i soldini, se non sale. Già ci vuole, Antone, dai, già ci vuole, ok, dai, a quanto ho capito devi sistemare quella televisione, dai, e non puoi modularla. Bene, bene, Antone, quando vuoi già siamo qua, dai. Sì, vabbè, ma adesso, io non vado a prendere il buio, c'ho quelli macchini, c'ho quell'altro di carattere brutto, da prendere, io non vado. Ma quel baracchino deve portare quella persona, ha riuscito sia a trovarla. Ma se fa no? Ah, ma hai detto che dovrei andare a recuperare un apparato da via prestato. Come qua sono ritornato, Antonio. Allora Antonio, che si dice, che si dice? In compagnia di Antonello, Antonio, campione. Io no, che me lo prendo. Perché la radio sei mio, la vostra. L'ha recuperato, no? Mica c'è anche Antonio, no, no, è saluto. Che non c'è affatto. No, già lo recupero, per quello c'è un po' freddo. Non è domani, dopo domani. Non è a fretta. Mi parte per l'olia. È mio. L'ho pagato io. Già pagato. Saluto, saluto Antonio, no. No, Gianni è stata la moglie con i bambini e ha chiuso per un attimo, capito? Quando ti arriva Pomponio nelle tue coordinate? Pomponio mi arriva quasi a fondo scala, capito? Scappa, perché è vicino, eh. E io da Pomponio quando arrivo? Prova. 2-3 prova. Attengo 3, e io cosa li farò a te? Poi chiedo 5 anni, ma... Beh, ma non la farò nulla, però chiedo. A te cosa arrivo? 5. Ciao. Però io lo sento meglio, Falchetto, Tu sei un po' più basso. Adesso c'ho QRM, quindi c'ho un po' di difficoltà a sentirti. Aspettate un attimo che attacco l'altra radio a farla scaldare, che è un po' di tempo ferma. Sì, attacca. Vedi, ovviamente. Prego. Avanti, prego. Ma ci vediamo, buonasera. Ciao, Antonio, ciao Falchetto e ciao anche a Pombo. Ciao, ma ci vediamo. E allora, come salva? Salva, salva. Vieni, vieni. Bene, bene, ma continua a casi, ma ci vediamo. Ciao. Come sta arrivando stasera? Arriva. Ti ascolto bene, là, sono in cuffia, ti ascolto abbastanza bene. Cappa, riprendi tra le siriane, fa girare per Antonello e Antonio. Farò girare, ciao Pomponio, buonasera, ben ascoltato, ciao Pombo. Ciao Massimiliano, saluto. Io faccio un altro gesto, sto controllando, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti so qual ascolto, non c'è problema. Arrogero. Ascolta, ma è freddo di questo flusso? Ma è tutto. Dove vuoi tirare? Siamo a Caniga. Devo trovare lui, se dopo stasera la faccio male e poi non c'è problema. Lo vedi e poi vediamo, non ti preoccupare per quello. L'ha pagato. Può non essere brutto, ma è da essere due, sono precisi, non cambia nulla. C'è la frequenzimetro, si pulsanti, neri, quindi è uguale, precisi identico, non è che sia brutto, se si chiama da essere due, da essere brutto, oppure samurai. Perché sono tutti uguali, samurai e anche Costantino. Quello c'è anche la regolazione, andiamo avanti, vuoi dire poco? Ehi, altro, un secondo che mi hai calpestato a Pompurio. Cos'è Pompu? La regolazione di fatto non è altro. C'erano niente con la regolazione di fatto. La regolazione di fatto c'era come stato un mezzo e basta, non c'era nessun altro. Vabbè, ma quella già si potrebbe fare, no? Beh, certo, dimmi cosa ti posso dire. La manopola del FG per dire del volume ci metti il coso, vabbè si può fare comunque, io mi sono scappato un po' dietro per dire nel Saturn Echo, quindi si può modificare, non è un problema per quello, comunque va 0,15 pagato. Vabbè, lo vediamo dopo quello lì, lo vediamo, avanti a tutti. Chiappa, mi sto facendo andare un pochettino questo apparecchio a vedere come va o Massimiliano. Bravo poeta. Chiappa Roger, segnale? Segnale quasi 7. Chiappa, adesso lo facciamo scaldare un po' di tempo fermo. Questo è quello grande, dai, il base. Ecco qua, vedo che capo Bullonita si sta rimettendo a posto perché ha avuto problemi allo Smith, non saliva l'altro giorno. Adesso pian pianino si sta rimettendo tutto a posto. Appa, gaffa. Allora già ti ascolto abbastanza bene. Gaffa. Riprende, fai te. Sì, gaffa, tu già bella la radio, bella squillante, bellissima, ok, tutto a noi comunque a questa parte. Ma quello è quello grande che ti ho fatto vedere un giorno, te lo ricordi? La bomboletta, dai, perfetto, scelto a tu, non toccare nulla, tutto a noi. Con questo di segnale quanto arriva dalle tue coordinate? Sempre un Mattessi, dai. Per me è sempre lo stesso, sto facendo un pochettino di portante per far scaldare questo apparecchio, che è l'apparecchio fermo. Vabbè, l'ho acceso anche avanti ieri, l'ho acceso. Però vedo che va tutto a Roger, dai. Sì, non c'è problema, tutto qui, dai. Tutto a Roger al centro, dai. Riprendi Massimiliano. Segnale lì al passaggio, vado a vedere 1, 2, 3, sì, su 4, 5, sì, dai. Su 4? Già va bene, allora va bene, dai, già è tutto a volgere. E fa chiaro quanto ti arriva nelle tue coordinate o massimo già? Fa chiaro, mi arriva a 5 allo stesso segnale di Pomponio. Peccato, adesso per giù sono lì, dai. Oh, comunque va molto bene. A voglia. Ma Pompurio è molto penalizzato però, Perché lui facendo sempre un quarantennino di macchina dentro casa. Certo, se si mette quel manico di scopa, come c'è la Falchetto, qua arriva la bomba. Comunque glielo ascolto bene, là. No, a Falchetto dicevo, Falchetto, prova a togliere un pochino di eco, che voglio ascoltarla senza eco con la radio. Ti stai sbagliando, ce l'ha fuori Pomponio adesso. Ah, ce l'ha messa fuori, non lo sapevo. Guarda. guarda adesso Massimiliano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Così è più bello, Falchetti. Così la radio è più bella, lo sai, senza quell'eco. La sento più chiara, più pulita. Confermi a tutti. Scappa. Così fa molto meglio qua. Sì, va... è molto più chiara, eh. Scappa, no, ce lo dai. Lasciamo tutte cose così, allora, vai. Perché così va bene. Poi se lo vuoi mettere a gusto tuo, te lo metti. Però così diventa più... è comprensibile anche con l'eco, però così è più bella, più chiara, più pulita, come modulazione. Poi se glielo fai mettere non c'è problema, non ci sono problemi, capito, hai capito? Tutto bene, dai, riprendi, fai girare, dai, Massimiliano. Ehi, ehi, dai, l'elicottero sta facendo girare, wow, wow, wow, fa tu. L'elicottero. Qua non ce n'è l'elicottero. Wow, wow. E cosa sei tu col... beh, con quello là non sei con l'altro. Con la 48 non sei, vero? No, sono negativo, negativo. Questo qua è l'Inter, normale. Parlo già, va bene qua. A voglia. Meglio di così. Buonasera, per ascoltare. Buonasera Luigi. Ho un apparatino per un attimo di sicurezza. Dimmi una conferma come sta uscendo. Bomba. Bella, perfetta. Addirittura una bomba. Anto, è perfetto. E va bene, vale. Bella, perfetta. E va benissimo. Appena, aspetta un secondino, eh. Va bene. Prova a aumentare questo aumenta qua, perché questo meter non funziona molto bene. Sta risalendo però non va molto bene. Perché sono basso alto. Con la gran pelle uscendo. Ah cappa. Perché è mezzo guato questo meter, capito? C'è un pochettino, adesso pian pianino sta risalendo, sta funzionando bene. L'altro giorno manco quello faceva. Ehi. Guarda il microfono, vedere. C'è bene, troppo eco c'è però lui. Troppo eco. Guarda a vedere quasi a zero, vedere. Potrebbe andare, ma era meglio prima. Adesso è quasi chiuso tutto l'eco, Così è migliorato. Così va benissimo, va alla grande. E così invece chiude del tutto. Amplificazione c'ha così. Troppa. Ah, ma già. È chiuso. Ma io lo sento molto amplificata, Positiva. Comunque va bene, là. Va abbastanza bene. Cos'è che ti dicevo anche tu? Il segnale con la gamba com'è? Scappa. E qua segna 5, però è sbagliato, hai capito, non funziona bene, ma su per giù sarai 8, dai, con l'altro apparecchio. Oh, ma ti sei oggi? Allora, me l'ha mandato con questo microfono, questa frase, può fargli riparare che non funziona. E me l'ha dato con questo microfono qua, col suo originale, comunque me l'ha mandato con questo microfono. Con questo microfono esce bene lo stesso? Positivo, a me piace più questo microfono che l'altro, se devo essere sincero. Io ti sento benissimo con questo. Sì, allora io glielo rimando indietro e gli dico di controllarsi se c'è qualcosa che non va, di controllarsi nell'impianto suo. Io guarda, lui, è meglio di quello con l'eco. Devo dire la verità, con questo esce una bomba, molto forte di radio, pulita, bella, chiara, tutto roccia. Confermi il bombolo? Va benissimo Massimiliano, va alla grande. Ho voluto sentire un segnale forte per vedere quanto ci scende questo smitter. Posso se cambi altro segnale, cioè il mio segnale verso di te. Aspetta. Cappa, uno mi ha fatto un piacere, ha messo la portante, Santiago Nocche. Guarda, va bene, tu. Allora, così sto uscendo con la mantova. Attenzione, canale 21, Brecco. Avanti già. Buonasera, sono stato costretto, mi hanno sfrattato a casa. Sono stato costretto a sedere in cortile, vado là. E quella lì lo metti nell'altro. Buon lavoro. migliorando questo meter. Ah, e allora il freddo, la macchina ci fa il freddo, Artù. E qua invece lui la macchina l'ho lasciata in moto perché anche deve girare un po', se no mi si scarica la batteria. Papà, ha fatto un giro allora. No, no, non ne ho voglia di guidare. Mi prende male in anca, non ne ho voglia di guidare. Resto fermo, però la lascio in moto, così almeno un po' si carica. Allora te lo riscaldi. Hai lo stesso segnale di casa tua? No. Immagini, ma attaccatoci. Via. Guarda. Guarda. No, si da 9.5 a 9.25. Già va bene allora. Ma Roger, va bene. Cigliaria. Sì, sì. Mi sa che ha aperto un negozio per Luigi, così è? Mi sa di sì, pian pianino, speriamo che si sistemi bene. Adesso facciamo scaldare alla grande. Comunque oggi va molto meglio. A Sali non alzava nulla il trasmitter, proprio era morto. Farrogelo, la farrogelo. Io lì come ti arrivo già. Dammi il segnale dal tuo smitterino. Dici se lasci me l'acqua, e io quando sto arrivando già. Ma sui, però me lo dici. E io già. Prova. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 8 e mezzo, Falche. Sono piccolino sono, eh. No, si sento bene, la radio è buona, non ti posso dire nulla. E il segnale è quello che ti segna, io dico, non è che... sei arrivato così, ma stai arrivando abbastanza bene. Cosa. È buona questa antenna, io non la sputo mai, molta gente l'ha cambiata e se l'è pentito, io questa antenna qua l'ho provata, mi è piaciuta subito, e tira l'ascio, questa caduca poi tira l'ascio. Non credo già, no, sono antenne buone, da quella misura in poi anche una mezza antenna che sarebbe la Magno, dai, è una via di mezzo, cioè secondo me sono le più buone, sono, se la pone più minore non andi da nessuna parte, è così, c'è poco da fare, noi la giriamo come la vogliamo girare, ma è così. Allora, se tu guardi qualsiasi libretto di istruzioni nella parte della 27 ti scrivono sempre che l'antenna della 27 deve essere lunga per rendere, più lunga è meglio è. Poi ci sono antenne che si adattano, magari mettendo le lineare eccetera eccetera, si adattano a uscire normali, belle, però diciamo l'antenna di per sé più lunga è meglio è, si sa quello, non lo si mette per estetica, a me non me ne frega niente dell'estetica perché ci tengo più alla radio che all'estetica, quindi poi non sono tutti che la vedono come me, comunque io sono così. Ah, manco a me mi interessa, manco a me mi interessa. Sì, da quella misura, cioè a quella come ci abbiamo noi, come quello che c'ha Massimiliano, sono le antenne che rendono. Se tu la poni più minori, o quella che abbiamo noi in moto, che è appena appena più corta, ma se tu la poni minoretta, non anda nulla. Ma io quella che ho io, soddisfazione me ne sta dando, ho già. È mezzo metro più corta della tua, è molto più leggera e più flessibile, capito? E diciamo che è quasi all'affari della 2001. Sì, lo sai, ma tu la usi con 300 watt, la similità, ti do le soddisfazioni per quello. Prova a usarla senza usare niente a fianco, a vedere chi va più bene. No, Gianni. Quella misura lì va benissimo, perché è sempre una 5 ottavi, se tu la poni più minore le cose cambiano, Poi l'abbiamo già provata noi con di meno, cioè l'ha già provata Massimiliano con di meno di watt, e va lo stesso. La cosa è, quando tu come antennino minore, lui se non si va nulla, non rende. Già, io ho provato l'alghero, mi. Ho provato l'alghero l'altro giorno, mi sembra che c'era anche tu in radio, e non c'avevo niente attaccato. No, se così va bene. Se quando non c'è niente ti risolve lo stesso, vuol dire che va bene l'antenna. Però è difficile trovarle di diversa misura che vanno bene così, è molto difficile. Guarda, io della mia non mi posso lamentare già. Io della mia non mi posso lamentare, sento bene a tutti, esco bene anche senza attaccato, senza attaccare niente, e ti dico che mi danno molte soddisfazioni. I DX fuori me li ho fatti, quindi non ci stanno problemi. Detto questo, io vi devo lasciare perché dobbiamo uscire, dai, che qua mi stanno già rompendo. Vi saluto, vai, ciao Gianni, ciao Falchetto, ciao Antonio, ciao agli ascoltori, ci risentiamo a più tardi dalla macchina se ci siete. Ciao ciao, buona serata. Avanti Gianni, tuoi saluti. Ciao Massimiliano, buona passeggiata. Ok, ci risentiamo alle prossime. E così la questione. Ma lì è tipo la Magnum già, è una cosa del genere, lo sai benissimo che rende bene perché ce l'hai pure tu. Ma se tu poni un antennino di cosa, vuol dire che è piccolo, piccola, no, non va più, no, non rende più, non va più. Ma dipende sempre anche dall'antennino, tu. Un periodo c'era una persona che ce l'aveva, un antennino piccolino e lo sentivamo da tutte le parti, però usava sempre un lineare grosso, è quello che c'è. Cioè, il lineare, l'antennino usciva bene da tutte le parti, come se avesse un'antenna grande. Ma non è la stessa cosa però. L'antenna mano, cioè, è logico chi si intende, perché mette il watt, mette. Però non è la stessa cosa, non è. Quando tu c'è un'antenna di una certa misura, le cose cambiano, cambia da giorno alla notte, ed è provato, e noi non ve la via mi mattessi, ne avevo bucata subito perché non rendeva, non andava niente. Io qua so che con questa antenna senza nulla con 5 watt da Monterraso arrivavo 9,5 a Sassari, quindi senza nulla attaccato, quindi vuol dire che l'antenna va bene, di questo io lo so di sicuro che va bene. La cosa che c'ha questa antenna è come si sporca ti da stazionare, allora devi pulirla, lucidarla ogni tanto come faccio io. Perché se ti faccio la radio tutta proprio da allora, prendi la luce, li prendi un pezzo di aranciaio, li metti un po' di cervici sull'aranciaio, sfreghi, poi li passi uno straccio, la ripiazzi, un bombon. Perché appa, è così, vanno bene, per lì sono antenne che vanno bene. Come la Turbo 48 che c'ha Massimiliano, cioè non ce l'aspettavamo manco noi che andasse così bene, la Magnum va benissimo, cioè sono antenne valide sono, poi ce n'è anche un'altra, c'è quella della Sigma che vanno bene, come quella che c'ha Natalino, cioè sono antenne valide sono. Sì, ma quella di Massimiliano va benissimo, io ho sempre detto che è un'antenna che nemmeno io mi aspettavo che andasse così, va molto bene come antenna, come va bene quella che abbiamo noi, io nella panda e tu nell'appunto, sono antenne che vanno molto bene lo stesso, eppure costano poco, magari vai a prendere una cotta un bel dinaro e non ti vende come quelle lì. Capo, è così, questa che io ho qua a casa stesso, sono molto, molto contento della prestazione, è la Turbo 2000 Sirio, è sempre una ciclottabile, cioè sono molto contento io delle prestazioni che dà, è un'antenna valida questa, va bene proprio. benissimo. Qua sembra che stia uscendo con un'antenna sul tetto. Una bella modulazione, un bel segnale, tutto. Allora, sto usando quell'apparecchio là, in quello grande. E te l'ho detto che lo smitter, pian pianino si sta mettendo un po' a posto, dai. Allora, fallo scaldare. Com'è la radio senza eco? Va bene. Fallo scaldare. Sì, già lo sto facendo scaldare. Infatti, lo senti, sto facendo portanti lunghe proprio per farlo scaldare alla grande. Ma ce l'avevo acceso mi l'altro giorno, già te l'ho detto, già. Adesione, Falchetto, si ascolti a mio, dopo dopo. Aspettare un attimino, deve essere sta facendo qualche cosa. Ah, adesso si è attivato. Pensavo se si dice altro. No, non ho finito ancora. È tornato. Parlo, cioè stavo facendo una cosettina e sono tornato. Tornato. Senti, al tornato, chiama gara. Radio Vera, Gabba Gabba e Gabba Gabba. Gamma Gamma. Allora mettiamo l'aria a quel barracchino. Certo che gliele mettiamo. Certo che gliele mettiamo. Gamma Gamma. Va bene, va bene, va bene, va bene. Grazie. Cominciano a funzionare, forse bisognava farlo riposare. È arrivato anche in queste condizioni. Come se ci serve un numero anche così. Dai, già si controlla tutto, dai, fa. Tutto roccia da centro, cambia. Avanti, chi è che chiamava Pierpaolo? Avanti. Avanti, chi chiama Pierpaolo? Avanti. Non avete compiato la civiltà. Ti abbassa, tira avanti. Numero 1. Sei gufi l'amico, dai. Troppo basso, dai, io non riesco a tirarti fuori, se non c'è qualcuno che ti riesce a tirar fuori. Altrove tu lo tiri fuori, cambio. Capo, più che lo tiriamo fuori. Vabbè, è da tempo per me che io devo andare a fare commissione, ce la risentiamo tutta dopo. Non vi ascolto nemmeno, sento solo questo rumore. a voi non vi ascolto proprio, invece se la attaccata di mettere vi ascolto perfettamente bene. Sempre con l'attacco a CDC, cari, è quello perché l'avevo fatto io l'attacco. L'alimentatore funziona benissimo perché c'è l'attacco a CDC, cari, l'alimentatore lo attacco e va bene. Se invece l'attacco io pensavo di opzionare, perché domani quando loro stanno dormendo io mi attacco quello lì e faccio almeno ascolto, magari uso il computer e nel frattempo ascolto, capito? Batteria di macchina, mi. Allora, cazzo, sono a partire tutto. quello di Piccolo che arrivava, volevo coprire. E quello era bello, un peccato. Peccato che... Perché gli altri già c'erano il compressore, ma era un bel lento, ma gonfiava un materasso che bugna 3 ore. Ho provato una volta a gonfiarlo, 3 ore per gonfiare un materasso, ci vedeva la prima, mi sono rotto le palle e l'ho gonfiato a bocca. Invece con l'ultimo gonfiava bene. No, quello che c'era gonfiava, il collo l'ho recuperato, il compressore già, ho recuperato il compressore. E che poi lo sai, la batteria l'ho trovata da sostituire, anche però c'era da sostituire la batteria e ha bruciato anche un componente. Componente costa poco, ma il della scheda, no? Però la batteria costa più di quello che avevo pagato, quello lì. Io la batteria la so, addirittura c'è la Fusaro, uguale, precisa, identica. È una batteria secco. Tenendo l'unico merita per comprartelo uguale, così se ti serve qualche pezzo ce l'hai poi. No, infatti sono andato adesso, ma ho detto e ci devo andare, lo sai, finalmente ci vado, non vai avanti da stesso, e quello di piccolo mi ha detto che dovevo portare una decina di giorni, arrivavano quello lì esattamente di nuovo uguale quella marca, perché gli avevo detto che c'erano gli uffici in quel momento dovevano arrivare. È una bella macchina. Invece questa della Black & Decker per papà, non vi so di solo, però il padre che sia un po' con una bottitura. Perché sarà per qualche giorno troppo presto. servizio per casa. No, ma guarda, vediamo cosa lo volto. 300 euro tra cave. Cosa? Un 300 euro tra cave. 200. 200, da 300. K, ZTG, B550. Comunque avevo preferito anche della ZTG quello della CTS. Quella CTS io ce l'ho. Io me lo, se me lo prendo, me lo prendo la CTS. Attualmente è in uso. Sì, so anche chi ce l'ha. Se la greve, la pompa quello. Cosa? Se la pompa quello. Che pompa e poi ti faccio la radio chiara. Per quello c'ha, però quello c'ha anche il coso e quello c'ha l'unica e c'ha anche in entrare in ascolto, c'ha l'amplificatore, vabbè, ma non lo vuoi dire, non me è l'amplificatore da lei, non capisco. Sì, ma tutte e due quello e quello c'è, quello lì c'ha anche il rotolino a distanza, no? Si implementava con il rotolino, lo puoi nascondere a cedere la rete rotolino. Capito. Vabbè, beh, quello ti dà un po' di più di ricezioni. Beh, lo so, c'è un amplificatore d'antenna. Va benissimo, ti fa ricevere ancora meglio. No, aspetta, sollevo tu. Ti solleva sia le voci che anche i rumori, però. No, già, no, rumori no. E ti segnale più tempo e te lo tira fuori, dai. Te lo tira fuori molto di più. È un amplificatore d'antenna, sarebbe voluto in casa. Ma c'è l'apparato da già insottato. Io l'ho avuto un amplificatore, ma non serviva a niente, era della ZG, non serviva a nulla. Un preamplificatore d'antenna. Come te l'avevi visto della ZG? Te lo ricordi? Non serviva niente, già. Ma no, infatti è come se non l'avessi. Tu puoi girare quanto vuoi, non amplificare. Pianto, la batteria già andiamo. Ehi, avanti. Anche un attimo, che riempio il bicchiere, sto arrivando subito, ecco, ma che fai una cazzaglia, ragazza, di un cazzaglia. Musicato. Non voglio la tua ventina, ti mando a Martè. La musica di Lugare. La musica di Lugare. E penso di sì, ha detto una vagata di Lugare. Ah, bravo, vai, vai, vai. Sa che prova a legarlo con quel taglio e a portarlo fuori dalla finestra. Ogni tanto lo abbassi giù e poi lo tiri su. Ehi, ti voglio una cosa possibile. Avessi in massa la mattina. Basta miseria, quando mi giro la faccia e non ho mai più faccia, si pone a brincamennato, lo questo. Che olio. Allora, tu pure olio. Va bene, un attimo il gatto, riprendo subito il gatto. Appartiamo. Noi ci abbiamo ancora lì di malato. Vero. Stava giada. Cosa c'è, la freddore? Sì, ancora è tutta raffreddata. C'è il respiro affannato, la veloce che sta passando. E poi c'è la gola, poverina, deve essere infiammata. Lo so, e oggi un pochettino si è ripresa, c'è il miago un po' più. Non le hai dato nulla? Che cosa? Non le hai dato nulla? Che pastiglie ho dato? Che pastiglie per me? Le pastiglie per l'influenza, me l'ho dato, me l'ho dato. Vabbè. E quelli come le fai? Le sminuzzi nella roba da mangiare, così? Gliele metti un boccone. No, io gli aprivo la bocca a volte. Se erano fastidi, gli aprivo la bocca, le staccavo dentro. E poi gli davo un po' d'acqua, le ingoiavo e tutto finito. varie, oppure deve mettere tipo polverina in mezzo alla roba da mangiare, ne mettevo poco. Invece la mangiava tutta, e una volta che si mangiava ancora si aggiungeva l'altro da mangiare. E così il raffreddore si è preso anche il tizio una volta, però si è preso brutto, addirittura hanno una membrana nell'occhio, gli si grittappa tutto l'occhio per qua. Cioè a occhio aperto, lì vedi questa membrana che grittappa l'occhio, non si vede più l'occhio. Questa era anche tutta per voi, capito, poverina. Ha preso forte. Seppure stai in casa, te ne mangi. Te immagini che è tutto blu. Ma sicuramente, ma sai cos'è, già penso che sia anche il cambiamento, perché essendo di là nella casa romera era abituata ai termosifoni e qua invece lei che cosa fa? Se ne va sotto la stufa e magari lascia il bidet della stufa allontanandosi magari. E allora magari troppo calore e prende vicino alla stufa. Vabbè, dai, già ribassa. Il fatto che respiri male mi ha preoccupato un po', perché non si abbia liquido nei polmoni. Quando respirano così solitamente c'hanno i polmoni intasati. Ma già ribassa, il gatto poi in 15 giorni si rimette. No, ma oggi già vedo che è meno, dai. È un po' ancora, ma c'è il naso tutto intasato, mi fa quello. E non per non sia che le puoi dire a soffia il naso. Poverina. Senti con il naso, non lo so, non ho detto molto bene. Un casino, ma vabbè, anche loro si ammalano, no, non ci ammaliamo noi, figurati loro. Già, ma sai che cosa è? È che c'è gli anni che c'ha, era più forte nel suo nido che era così, e qua invece è pieno. Al televisore in terra c'è il riscaldamento sulle tubazioni che passano e le sicurezza proprio sulla tubazione, però tu la prendi e bolle. Adesso vediamo se domani funziona. mi pare strano. Sicuramente non ce la farò operare. Io l'ho usato. Ho capito la cuore che si mette tardi per mettere in bocca la legge. Le cuffie? Allora, non sentite? No. Ma chi c'era la commissione che la prende? Almeno di questo microfono è che ho sentito altra roba. La commissione era quella allora. No, è andato per fare una commissione per me. Deve essere fatto due. Fatto due con una. Ma cos'è allora che fa? No, non so più, so. Di quella roba là è saltata, glielo ho detto che è meglio farlo dopo le feste, perché prima ha detto le giorni di festa, ma le giorni di festa tutti mangiano un bel, gana gana di maniera mista le giorni di festa, non ti pare? Ma no, giorni di festa, chi cazzo vuoi, insomma, ma quei giorni, no, è impossibile. Allora gli ho detto dopo le feste, ci sentiamo un sabato, ci mettiamo d'accordo e andiamo tutti. Però dovete essere di parola, perché bisogna prenotare, e bisogna prenotare almeno un giorno prima, o no? E bisogna sapere se si è disponibili. Quanti siamo? In quanti siamo? E dalla disponibilità, perché? Poi magari prenoti e non ci va nessuno, è anche brutto. Visto che c'era freddo si poteva anche fare, così, ma lui ha detto di no, perché ci aveva impegni, non so che cosa, non faceva uso. Quindi io ho detto non è festa, no, perché... E poi gli ho anche accennato il fatto che è meglio farlo prima tra di noi, e poi quando si conoscono anche gli altri, che almeno il baracchino, poi si può fare tutti insieme. Del canale 10, ma del canale 21, solo quello del canale 21 e tra di noi e basta. E vabbè, ha già compreso, me la mangio la pamela. Vabbè, non lo so che fa. Se vogliamo andare possiamo andare lo stesso, però siamo solo lui. E noi lo lasciamo acceso e facciamo modulare. quarto, che era il primario. Già lo so, già. Era abituato sempre a usarlo. E poi adesso è stato fermo, però il carro lo accendevo sempre, evidentemente dovevo andare in oscillazione un po'. Mi fa un lago, non vai, però la vita la parliamo meno con queste carte, mi pica la gavetta della base magnetica, e me la poggi vicino, la base magnetica. Ah, ma non esci la comuna, per fa... No, adesso lo lascio acceso, dai, proviamo a vedere un po'. No, non faccio, no, se ti, ti dà la cucura. Lo ritratto e cambia. Ehi, c'è la forza, non mi tira la cucura, non mi tira niente. La va attaccata la maglietta. Bravo, sarà, sarà. Avanti, falso, falso. Ya, qua siamo lì, qua, qua, qua. C'è un break nel fondo, avanti break sul fondo. Poi Sandro, ma dove sei? A Roma? Casa, casa, sì. Ho detto se sei a casa. Ma va bene, prova. Dopo poco arrivi a casa dalla macchina. Sì, Santiago quasi 7, la radio 5. Va bene, dove sei? Dove ti trovi? Ah, ecco. Ecco perché. Ecco cosa ci fai a questo orario? Ah, crociera, c'è. Casa. Ed era giorno, non era nemmeno buio, no, come si è sceso la macchina, si è ammacciato. Tu l'hai preso, Ma sai che il fucile ci arriva lo stesso, anche se lontano? Ah, beh, quello sì, mi sono improvviso, ho visto. Sono turista adesso da queste parti, infatti. Cavagava. No, comunque gli hanno visto anche, anche bellino, era grandetto, mi ha guardato, esatto, fermo fermo perché c'avevo le luci accese, è stato fermo fermo e poi sono andato, gli sono andato incontro e scappato. Figurati, adesso noi l'abbiamo messo incantato, con le luci, però è andato via, è chiaro da questa parte, Sandro, è chiaro adesso, Mi senti meglio? Sì, a buon momento sta arrivando qua, Dai, ho voluto allungare appena bene, sto salendo un po' più su. Parole, va, riprenditi andiamo. Sempre più forte. Va bene, Conan. Ma 3 secondi, un attimo, che non ti ancora, Adesso sei 9, sa. Che lo fa? Magari facendo male, tornando, tocca a qualche macchina, qualche coppietta che sta, che sono in crociera. Ma va bene, vai, Hola, Sandrino! Cava, cava e cava, adesso come sto uscendo? Diciamo che più o meno uguale, siamo qua a 2-4 orecchie. Ah, va bene, vai. Ok, dai, vai avanti Gianni. C'è anche per un po' che partite, fate girare, dai, io un attimino sto facendo una cosettina e poi riprendo. Avanti Pierpaolo, per Sandro. Niente, avanti Antonio per Sandro. Ma non lo sento, no. Non mi arriva per niente in queste coordinate. Lui ti sente comunque, ti sente benissimo. Purtroppo sa, Antonio ha dei problemi dell'antenna, la pinta non riesce a copiarti, cambio. Ha detto che Antonio non riesce a tirarti fuori perché magari ha problemi di antenna, capito? Comunque gli ho detto che tu già l'ascoltavi, capito? Però lui non riesce a ascoltarti, cambio. Ci fai con le coordinate, sa? Capparoggi. Già va bene, dai, già va bene, anche noi già ci attrezziamo un po', dai. Sta scendendo adesso, così. Ah, discesa piano piano, adesso fra un pochettino ci perdiamo, fino a quando ci ascoltiamo e lasciamo qua. Sentirlo, eh. Ma tu? Adesso sto già incominciando a sentirlo l'amico. Quanto ci ho fatto? Tappa che ho copiato. Anto, guarda un po'. Sto già cominciando a sentirti. Dove sei arrivato? Guarda, io mi sono spostato un po', l'altezza più o meno è quella, però probabilmente sono in zona favorevole per te, perché anche tu mi stai arrivando meglio adesso, eh? Ciao, ti sto arrivando bene in quella zona. Sì, meglio di dove ero fermo prima sicuramente. Per Roger. Ok. Beh, perché adesso forse ti starei avvicinando a me. Gava, e già va bene. E niente, Gianni, vediamo se Gianni ha finito di fare quello che stava facendo. Attento Gianni. Aspetta che cambio apparecchio e questo lo metto da parte. Fatta già la prova, fatto scaldare, adesso metto l'altro, quello che uso sempre, dai. Magari, riprendi Gianni, bene Gianni. Io. Avevo fatto capridura. Ah, negativo, ha rinunciato al mic all'amico che c'è a fianco, capito? Allora saluto anche l'amico che c'è a fianco. Mi auguro un 35 ci vuole qualcosa di cosa lì. Avanti, di nuovo coso. Capito. Giovanni. Avanti. L'hai sentito a Gianni? Gianni. Non ho capito adesso che dai. Ciao Giovanni, mi hai sentito? Non avevo capito diritto. Adesso ho capito. E io ho pensato magari Sandrino si è fatto qualche denuncia e non lo vuole dire. Fuga siete, no, in Italia va tanto al cane. Sì, già fa bene ogni tanto. Perché sia le donne che gli uomini hanno bisogno di stare soli tra di loro. Nel senso che se per dire si va in pizzeria, vanno tutti gli uomini e parlano anche delle cose, se sono le donne non le possono dire. Dio te l'appoggio. Ma sono rientrato, ecco qua. Allora io te la spingo. Io direi un sacco. Cattolino professore, quando aveva parlato spagnolo. Chi è questo qui? Io. Dato lì mi sono dormito, dove sei che devo andare a spagnolo a tirare i soldi che vado a comprare la birra? Non anche lì mi ha dormito un po'. Animale, io mi sono svegliato adesso. Immaginare che c'è un amico in frequenza e se l'ascolti Pompo. Vieni avanti l'amico per Pomponio. Antonio, l'ascolti Giovanni anche. Non lo sento. Sono su Montedulia. Non lo sento. Io lì mi ricordo che tanto tempo fa c'era un che si chiamava Cristalda. Fermi Alessio. Te lo ricordi a Cristal da Montedulia? Sì. La pagava. Che non era il guardiano del pane, no? Da un guardiano militare, della aviazione militare. Guarda. Yes. Voglio tu un brunino di mamma. Vai, dopo gatta. Vai, dingue. Hai capito che sei droga? Sei proprio un po' uomo, c'è la perpa. Oh, yeah. Già, qui ce l'abbiamo un po' di presto, la donna dello spin, mamma mia. Devo cambiare la moto, va. Se cazzo la pedi, altro. Se non la macchina, la di macchina. Porti macchina, oh, no, io non di moto. Abbiamo fatto buco di letto, non mi sei su Manzano, mamma delle creature. E da quale vai dello spinto? Lo del cucci. Mi devi stare più vicino. Mamma mia, mamma mia. Che ambientaccio che c'è con le cucci? Perché? Da di tutti i canti, chi si dice da strada, tutti i barboni da strada. Una volta non ha restato uno davanti a me, c'è una cosa in carabina, la bicicletta di voce di manetta. Di ripresa al cannibolo. Vabbè, ormai la sua trappola di liccori, ma di buoni di manetti. E dietro di zingari, di tutto, di tutto e di più. Se qua c'è la moto, solo c'è una volta di ragazze già, ma non è italiane. Ma tu vuoi stare belle, proprio io quando ero avuto 25 anni, forse anche 20 anni, ma tu vivi lì. No, ero adesso albanese mi pare. Ma belle, tu vivi lì, mi bocca a bicchia. Rumeno. E vabbè, rumeno, ragazzi, ma belle, già, tu vivi belle, belle veramente. No, questo lui lo sai cosa aveva fatto. È arrivato alla cassa. Si è buttato la roba, aveva dato i soldi, no, quello stava aspettando lì, se li ha preso le buste e se ne è scappato. Se ne è scappato, poi guasto, li ha nascosti vicino. E dopo un paio di minuti loro hanno già avvisato i carabinieri, dopo un po' di minuti ho detto come era vestito e tutto. Dopo un po' di minuti questo guasto è tornato a prendersi le buste e i carabinieri hanno trovato mentre se ne stava prendendo. Poi non c'è nessun problema. lo so, sono io che stavo troppo in velocità, Tu sei dritto. Mi schiacciavo troppo bene il freddo al mic, capito? Non hai qualche... Cosa tu? Sto freddo come hai? Mi sei preso la iatta a me, non che cazzo? La gamba. È accesa, ma c'è un freddo da cane proprio, C'è freddo sì. Si è cambiato apparato, tu? Io ho cambiato apparecchio. Ehi, cosa c'hai lì? C'è che... Fa... positivo. Meno vera. Ui, ui. No, come messo a posto. Cosa tu? Non là. L'ho rimesso a posto. Hai fatto bene. Proprio non tenerlo, tienilo coperto, capito? Va. È così. Accendilo ogni tanto, capito, dai, non lasciarlo fermo. Adesso provo a passare la caramita a vedere se si mette a posto. Fai così, magari è bloccato, magari sia fuori il polvo. Però passa la caramita e cattaccia che si riprenda. Sicuramente sei un po' magnetizzato. Eppure lo accendo ogni tanto. Cappa. Chi già se ne prende tu, fregatene già, si mette tutto a posto. Già funziona. Gama. Quella come radio è bellissima, Che bellino. Prima mi ha preso scaldato quello lì, anche d'estate, modulando un bel... Perché d'estate scaldano di più, Era sempre acceso, poi dopo ho preso questo, un altro, e quindi l'ho un pochettino spento, ma comunque, una volta che lo accendo va sempre alla grande. Cappa, che positivo, e lo trovo bene a tu, quando sono apparati buoni, vanno sempre alla grande. Ma devo dire che sono buono io. Pulita la radio, anche la mia. Positivo, dai. Positivo a 100. Quella è la più valida che c'hai. Ormai così intengo, più sopportabile non arrivi... Cioè, andava, ma non più di tanto. Qua era difficoltoso a sentire. No, ma poi, non ti ripeto, dovevo rotto le scatole, dovevo stare questo portatile sopra il petto, sembrava che avesse un foratino al cavo. Allora questo qui, leggero, leggero, modulo, tranquillo, sereno, e non mi stacca neanche la mano, capito? Va. È buono anche col microfono, è buono, e va bene. Però va una cosa come ti si deve. Infatti, chiamagava. No. Come a tu? No, questo portatile sempre in mano, mamma mia. Poi c'è una rottura di scatole, tu. Una rottura di scatole. Va bene quando ci vuole. Quando sei così, ma quando sei a casa devi stare tranquillo che l'hai sdraiato. Cioè, è un'altra cosa, piccola. Va. Non riesco a dirlo, va. Vabbè, normale che è un'altra cosa importante, hai capito? Questo ha il microfono in mano, tranquillo, più leggero, la modulazione più serena, hai capito? E puoi parlare quando vuoi, capito? Non c'è problema, hai capito a tu? L'unica cosa, poi più là se si metterà l'antenna, si va ancora più alla grande. Gappa di Roger. Ma dove andrò a comprare? Ma non vanno, ne avrei messo. Avrei messo una Rinco che va alla grande. Troppo impegnativa. Infatti, ho una mezza idea di comprare una Rinco. La Rinco, da usare le prende. Sì, quello del 4 novembre. Va. Quanto costa tu? Non dico io, non taranta non rende con l'antenna lì. Va meglio la mano, tu cosa ti disegni? Va molto meglio. Ah, però vedi che non è come dici tu. Anto, ma come fai a paragonare una ringa o una mano? Sì, vabbè. Vabbè, è una via di mezzo è quella. Ma meglio l'antenna. Da 27 di... Cioè, io ho sentito dire che la superstella, diciamo, quella con 24 radiali. E poi la seconda è la macchina qua. Quella lì pompa, Ma è che pompa? Ha le sue caratteristiche. E con tre cose, Antu. Se tu prendi uno scooterone 125, ti fa tutto, lo paghi tutto. Se prendi uno 500, ti fa tutto, lo paghi tutto. Tu hai le antenne, più o meno. Le caratteristiche cambiano. Comunque se uno vuole mettere una via di mezzo, che non vuole mettere una ringo va la grande, se non vuole mettere una mano va, è una via di mezzo e va, e si fa sentire, già con quella che ha, che non è grande, va la grande. Ma tu, lui ha la possibilità di metterla sul tetto, già che l'ha piantato gli fa piantare un'antenna che gli dura 20 anni, 30 anni, non un arringo che gli durerà anche la sottostefana, aiuta. Un arringo è un'antenna così, sì, nella via di mezzo sì, ma uno se pianta, dopo che pianta una piccola, dopo va quella che rende, là. Vabbè già, ma scopito che dura anche quella. Mamma mia, è entrata a rompermi le scatole. Vuol per dire la stella era una buona antenna, ma come materiale niente a che fare con la manto, è molto più robusta la manta. E vabbè, la manta va a durare anche anni, ma sono convinto che dura anche quella. Andiamo a provarla. C'è questo portantista che mi sta rompendo le scatole. Chi è Artù? Cicchi. Chi è? Sì, grazie. Ma proprio le faccio rompere le scatole, dai.